Poi ti svegli un mattino e non ti trovi più là. Per seguire il destino, mille donne, due sogni e un po' di libertà. E ti svegli una notte che la luna ti dà. L'acqua in frigo è finita e la sveglia in cucina, chissà che anno fa. Vado via col vento verso l'ultima follia. Se il tempo c'è, se c'è la fantasia, io l'ultima canzone canterò. E ti svegli un mattino, non ti trovi più là. Ugo, Alberto, Armandino, la piazzetta e il pallone, ma che fine si fa? Mentre fuori c'è il sole, come mille anni fa, tra le rose e le viole sono cambiati i bambini, ma nessuno lo sa. Vado via col vento verso l'ultima follia. Se il tempo c'è, se c'è la fantasia, io l'ultima canzone scriverò. Così passa la vita, passa l'eternità, e stanotte l'amore, la mia storia infinita, chissà dove sarà. E ti svegli un mattino e non ti trovi più là. Per seguire il destino, mille donne, due sogni e un po' di libertà. E ti svegli da grande che non ce la fai più, ma la donna che ho amato, lei è sempre più bella e l'amo sempre di più. Vado via col vento verso l'ultima follia. Se il tempo c'è, se c'è la fantasia, io l'ultima canzone sognerò. C'è una canzone che ho scritto così, per tanto per scrivere, e andare all'RCA con 3-4 canzoni, e questa l'avevo messa così nel in mezzo alle altre, e invece questi impazzirono per questa canzone che voi conoscete benissimo. Io andai in ospedale perché avevo la febbre alta, allora andai prima al Santo Spirito, sono stato un mese, e dopo un mese dovevo essere trasferito al San Filippo, in quanto lì non facevano tonsillectomie. In quel momento ci fu una grossa lite fra me e un primario, perché la mattina all'alba mi dissero: andiamo, facciamo un prelievo. Io dissi: scusate, ma io devo andare in un altro ospedale, domattina mi faranno di nuovo il prelievo. Andiamo, giorno notte. Che giorno? Sono tre figli. E insomma, non mi fece questa cosa. Venne la suora, venne il medico, alla fine venne il primario e disse: ma insomma, lei non faccia l'imbecille. E io fui offeso da questa cosa, dissi: lei usi un linguaggio adeguato al camice che indossa. Questo: ah, la denuncio! E andai via col tassì. Dopo altri 2 mesi feci l'intervento e mi dissero: contento, tutto a posto, può uscire? Ho fatto: ma dottore, io c'avevo la febbre. Beh, c'aveva anche prima, no? In compenso non si paga.